perché io non sono, cioè io sono quello che fa parlare gli altri. Va bene. Quello che parla lui. Allora, io non so se avete visto le puntate già uscite con Linus, con vabbè. Siccome l'idea di Repubblica è che oggi i genitori parlano con i figli soprattutto in videochiamata, si simula sta videochiamata dove il padre comincia parlando dell'estate, dove siete, cosa fate, cioè, poi da lì si può parlare di tutto. Io ho visto un po' le vostre biografie, ragazzi. Alice assistente sociale, giusto? Sì. Leonardo che si occupa dei diritti sul web, quindi come il padre ha fatto giurisprudenza. Esatto. Ho visto qualche video tuo su Putin, nella settimana linguistica, i gabbiani, eccetera. Non ho capito se quello è il tuo hobby o... Sì, è un hobby quello. Caso, sì. È un hobby, non è il mio lavoro. Abbinato anche a... Abbinato anche alla... Startup. Stand-up comedy. Sì, sì, sì, l'altra cosa che avevo scritto è che ho iniziato a fare qualche spettacolo di stand-up comedy. Ma questi sono hobby, come dicevi tu. Non è il mio lavoro, diciamo... Non è un lavoro, è un divertimento. Senti, facciamo che il padre parla con i figli e fa delle e chiede cosa stanno facendo adesso e dove sono. E dopo da lì andiamo... Loro devono essere in vacanza in questo momento? No. No, dove vogliono. Va bene. Io ho uno sfondo che sembra San Francisco dietro. Ma esatto. Tu Michele mi senti se parlo così? Perché ho il microfono disattivato, ma non so se mi senti. Sì, sento bene. Perfetto. Sento bene. Perfetto. Senti anche me, Michele? Sì, anche te. Ok. Sì. Allora, chiedici dove siamo. Comincia il padre. Bene, io voglio chiedere ai miei figli dove sono, ma non solo logisticamente, non solo da un punto di vista geografico, ma dove sono arrivati nella vita, dove sono, dove si sentono meglio. Poi mi dicono anche dove sono geograficamente, dove andranno. Ecco. Inizi tu, Alice. Okay. Grazie. Dove sei? Sono nella vita, spero a buon punto, ma non è detto. E, dove sono nella vita? Sì, spero a buon punto. Lavorativamente parlando sto facendo quello che mi piace, ma siamo ancora indietro e mi sento ancora molto una ventenne, anche se ormai gli anni sono 35, ma me la cavo. Geograficamente per ora sono a Bologna, ma si spera tra una settimana che io sia in Costa Corallina, in Sardegna. Ma senti, perché dici faccio un lavoro che mi piace? Cioè, vuoi spiegarlo un po' meglio? Sì, io ho studiato per fare l'assistente sociale e anche se ci ho messo tanto e ora sono finalmente diventata assistente sociale e lo sto facendo proprio dove lo volevo fare, quindi per la giustizia minorile, al carcere minorile, per l'ufficio di servizio sociale minorile. E per ora è a partita IVA. Sì, a Bologna. Per ora è a partita IVA, quindi ancora sono a buon punto, ecco, credo. Però ho fatto il concorso statale e manca la parte orale, spero che vada bene, ecco, ci sarà a settembre. Diciamo che queste sono... Ma perché è così dura fare l'assistente sociale? Ci vogliono un sacco di esami? Sì, è stata dura per me che non ho voglia di studiare e che non avrei voluto studiare. Ma in generale per poterlo fare in un modo da dipendente... statale, perché non lo puoi fare privatamente, devi fare tutta un'altra fila che non fa parte del mio essere, ecco. Ma mi sono con piacere, con fatica, ma con piacere piegata a questo, perché ho capito proprio che, cioè, tutte queste fatiche mi hanno fatto capire che è proprio quello che voglio fare. Quindi sì, ovviamente sono cose che di solito si fanno a 20 anni, quelle che sto facendo io adesso, 25, i concorsi, le cose, essere a partita IVA per due uffici, e invece io ne ho 35, quindi sono un po' indietro, ma a buon punto. Quindi alla mia domanda dove sei, a tre quarti della vita, e soprattutto come dire, è un incipit, è un grande incipit, e io la trovo spesso perché questo posto è vicino, il suo lavoro è vicino al mio studio d'arte, e ci vediamo molto più di prima, e questo per me è un grande, è una grande soddisfazione, perché vuole dire che lei si trova nel posto dove mi trovo io, e questo è molto bello. Mi correggo, Michele, io lavoro sia per l'ufficio e servizio sociale minorenni che anche a progetto sempre per l'ufficio di esecuzione penale esterna adulti a Bologna. Cioè, cosa sarebbe? Praticamente sono tutte quelle persone che sono, che hanno, che sono nel penale ma non sono in carcere. Quindi l'ufficio di esecuzione, penale esterna. Quindi tutte le esterna, tutte le misure alternative alla detenzione. Quindi sto facendo la scuola fra i due uffici. E c'è una bella vicinanza, c'è una bella vicinanza dei temi. Se Leonardo si sta avvicinando al teatro come genius loci, dov'è in questo momento, e addirittura parlare in pubblico da solo con i suoi testi che scrive, ma te ne parlerà lui. Mi piace molto pensare che nessuno copia il padre, però giochiamo sullo stesso tavolo con prospettive diverse, essendomi sempre interessato di carceri, sempre interessato da Zacchi fino alle detenzioni più assurde di migranti. Mia figlia sta lavorando dentro quella porta lì, che è una grande porta, è un uscio sull'altro, sugli porta, altri e sull'altrove. È una porta un po' stretta, ecco, diciamo che non ho scelto una strada né facile né insomma né divertente, ma è proprio una vocazione ancora sempre, quindi cerco di trovare anche il buono, il divertimento e la gioia in un lavoro che non è semplice. E la gioia la trovo soprattutto nel parcheggiare nello studio di papà tutti i giorni e incrociarlo più adesso che 10 anni fa. Quindi io sono suo garage, non sono un padre. Di solito i padri sono amici, lontani, vaporizzati, come dice Lacan, ma alle volte garagisti, questo è importantissimo. Ok. Tocca a me. Vediamo Leonardo. Allora, io dove sono fisicamente? Tra le nuvole. Da tanto tempo, da quando sono piccolo, mi viene sempre detto che non sono sulla terra, sono un po' sempre stato tra le nuvole o sulla luna, e però diciamo che carrieristicamente invece mi trovo in una fase di buona di lavoro, in cui professionalmente sto crescendo molto. Ma come accennavo prima, ho degli aspetti, dei lati creativi che devo in qualche modo far sfogare. Tu sei avvocato Leonardo? Io sono laureato in legge, non ho mai fatto l'esame d'avvocato, però applico la legge al web, quindi mi occupo di rimozione contenuti dal web per copyright, privacy, diritto all'oblio, e vado a rimuovere quindi contenuti, ma non faccio solo questo, perché li carico anche i contenuti facendo quello che invece è l'aspetto che ti dicevo prima, più di hobby, di creazione contenuti. Cioè tu sei un censore praticamente. Esatto, per andare a rimuovere, sì, ovviamente ci devono essere delle basi legali, non sono un hacker, faccio tutto per... Per ora non sei un hacker. Non ancora un hacker, esatto. Magari tra un po' lo divento. Che svoltiamo tutti, Michele, se fa l'hacker. Ho un figlio rene, vuol dire che pulisce. Sì. E niente, invece però dato che sono stato educato alla creatività, wow, non riesco a passare un po' tanto tempo senza fare qualcosa di leggermente creativo, e quindi mi tocca, sono passato da creazione video, che tuttora faccio, quindi ho un canale YouTube, a anche questi piccoli testi di stand-up comedy che sto iniziando a fare, giusto per confrontarmi con un pubblico. Anche se il più grande pubblico e il peggior pubblico allo stesso tempo, Lemmy Peder, che... No, in bolognese è mio padre. Lemmy Peder, che vuol dire che in bolognese è mio padre, che oltre a essere un parcheggiatore è anche un critico, ma sempre troppo buono nei miei confronti. La bontà non esiste, la gentilezza non esiste in questi casi, esiste il pedinamento. Io sono un pedinatore dall'alto, se posso, così non mi vedono, anche perché mio figlio non mi ha permesso ancora di andare a vedere un suo incontro dal vivo, uno suo speech dal vivo, e non lo farò per tanto tempo, perché è giusto che non ci siano assolutamente rapporti di condizionamento. Uno dei più bei complimenti che mi ha fatto mio figlio quando era alle elementari mi ha detto: tu hai l'attaccatura molto bassa, per fortuna ho dei compagni di scuola che sono già pelati. E l'altra cosa, non mi hai mai chiesto qualche cosa obbligandomi a fare qualche cosa. Questi sono stati i due complimenti più belli che mio figlio mi ha fatto, senza contare quelli che mi ha fatto mia figlia, che sono tutti più dorati e più appesantiti. Ecco. I due complimenti che ti ha fatto sono che non perdi i capelli, e quindi di conseguenza, in teoria, speriamo, neanch'io li vada a perdere così presto. Quindi ecco. Era un po' un complimento boomerang, Michele. E anche il concetto però di non averlo mai obbligato a fare niente, la scuola, il liceo, la vita, le cose. Questo per me è fondamentale, perché i padri amici sono amici degli amici, non sono amici dei figli. È un vecchio tema, quasi banale e retorico, ma sicuramente preferisco i padri amici. Mammi, ma i mici graffiano, tu non graffi, papà. No, ma però c'è anche un modo di seguirvi e di starvi a vedere, ecco. Dopo la separazione per me è stata abbastanza difficile stare senza i miei figli, devo dire, perché per me la quotidianità, anche se poi l'età dopo cambiava, i figli se ne andavano per i fatti loro, però il piacere della colazione, il piacere di portarli a scuola, il piacere di andare a prenderli, il piacere di giocare, il piacere di condividere film, di andare a fare viaggi, è sempre stato per me dominante, molto prima del lavoro. Io in tutta la vita non ho mai detto ai miei figli, alla domanda mi porti fuori, cosa facciamo, giochiamo, non ho mai detto scusa, devo finire una cosa, l'ho sempre rimandato. Confermo. È mancato molto anche a noi la quotidianità. Sono mancato molto anche a loro, mancherò molto anche, non mancherò quando morirò però, perché credo nell'aldilà e mi farà molto molto piacere essere presente. Sì, nella reincarnazione, non so, forse sono alla quarta vita, e penso sicuramente che la morte non esista. Però non facciamo male a goderci l'al di qua, ecco, per il momento. Proviamoci. Abbiamo tutti delle credenze un po' particolari. Infatti, io credo che sono molto credente, poi anche loro hanno il loro modo di credere. Tu, Alice, sei credente come? Sì, sono credente, sì, sono credente. Sei cattolica? Sì, sì. Poi sì, la chiesa, insomma, però insomma è credente proprio. Cattolica critica, si può dire? Cattolica critica, sì. Capito, ma va bene, certo, ma adesso distinguiamo il clero dal... Esatto, no, sono credente. Sono credente, ma lo è anche papà e lo è anche Leo. Io sono uno spiritualista, non sono... No, è credente. Noi siamo dei pezzi di Dio, noi ci dimentichiamo di essere degli dèi, delle divinità. E lo facciamo troppo spesso. Se la politica fosse più poetica, più divina, più spirituale, non avremmo ciò che abbiamo. Questa è parte dell'educazione che ci ha dato nostro padre. No, raccontato. Io ho raccontato. No, R apostrofo acconto. È una parte. R acconto. È un acconto di quello che io racconto. Ma è importante che nessuno dica tu devi essere cristiano, tu devi essere attore, tu devi essere scrittore, tu devi essere un uomo forte. Preferisco l'uomo forse. Comunque è il concetto di libertà che dicevi prima, come ce l'ha dato da ragazzi, questo è uno dei principi fondamentali, forse bergonzoniani degli ultimi tempi più affermati, la possibilità di essere tante cose in una e di vederci e di vedere tante cose in tutto. Ci ha sempre lasciato molto liberi e di essere ciò che volevamo, questo anche nostra madre, anche se ci ha dovuto dare e tuttora ci dà delle... un po' più di come si può dire? Paletti, limiti, regole, no, ma neanche contorni, di contorni, bravo, bello, però entrambi i nostri genitori abbiamo avuto la fortuna. Recinti, la Renata ha esagerato, paletti, perché i recinti chiudono, ma no, nel senso i paletti invece delimitano e basta. Insomma, esatto, ha delimitato un po', ha fatto da guardrail per alcune strade la mamma, e però la mamma, la mamma. E papà ci hanno lasciato entrambi molto liberi. E visto che papà soprattutto ci ha veramente sempre lasciati in modo amorevole, tanto liberi di essere esattamente quello che volevamo, e la mamma è stata più un guardrail, perché in alcune fasi della vita era il caso di darci dei paletti. Però ci hanno cresciuto veramente con la libertà e con l'amore, entrambi. Possiamo usare la parola anche divertimento? Grande divertimento papà. Tanto divertimento. Io posso dire una cosa, che tutte le cose che papà dice nei suoi spettacoli, tipo la favola per svegliarsi o tante altre cose per che raccontano, cui, della che raccontano dei figli, sono tutte vere. Quindi quando racconta che ci svegliava con un gong la mattina, o la favola per svegliarsi, che i figli vanno tenuti in tirella, che vanno tenuti sempre belli sul chi va là, e sono tutte cose vere, quindi molti dei traumi avuti e delle nostre psicoanalisi sono dovuti ai metodi di papà nell'infanzia. L'infanzia è stato tanto divertente quanto complicata. Scusa, hai detto di che gong per svegliarsi? C'era un gong in camera di Leonardo e papà lo faceva suonare con verve ogni mattina verso le 7 e un po'. E le favole andavano raccontate per svegliarci, cioè non prima di addormentarsi, ma prima di svegliarsi, 4 della mattina, 5 della mattina, proprio perché devono svegliarci, non posso addormentare questa generazione. È tremendamente tutto vero. E io, insomma, la mia insonnia e la nostra psicoanalisi è tutta... La tua, Sì. Oppure dire che la mamma non c'era più. Oppure dire che la mamma non, c'era, mamma più, non c'era più e non sarebbe più tornata. Non è tornata e noi finché non la rivedevamo eravamo tesissimi. Però sai la gioia nel rivederla? Esatto. Sai i traumi, Michele? Anche alla tua posizione religiosa, il papà è spiritualista, siamo pezzi di Dio, Alice è cristiana, e tu? Ah, io sono tendenzialmente cristiano anch'io, ma osservo. Non mi piace, diciamo, definirmi, ma ho anche io una mia spiritualità, una credenza in un Dio, in Dio, anche se non so se sia effettivamente il Dio di cui parlano i musulmani, il Dio di cui parlano i cristiani, il Dio di cui parlano gli induisti. Secondo me una qualche forma superiore esiste, e seguiamo una sorta di flusso indicato da questa forma di spiritualità che, come abbiamo detto prima, è un po' dappertutto. E noi la sentiamo molto da quando siamo nati. Sarà stati i genitori? Chi lo sa? Forse anche la vita in generale. Che ci accomuna, cioè che rende me e mio fratello molto simili, e oltre la genetica, e che ci ha trasmesso molto papà, ma anche la mamma, è il fatto, qualsiasi parte spirituale si abbia, è quella di sentirci spesso, di essere consapevoli di essere strumenti, ecco, e quindi di dover portare qualcosa di buono alle persone che sono accanto a noi. Questa è una cosa che mi sento di parlare per tutti, che sia per una credenza o per una religione o per qualcos'altro, e siamo tutti, ci sentiamo tutti, io, la mamma, Leonardo e papà, e strumenti per portare qualcosa di buono all'altro. Papà lo fa in un modo, Leonardo in un altro, la mamma in un altro ancora, io in un altro, ma questa è una cosa che abbiamo proprio in comune, per quanto abbiamo credenze diverse. Scusa, vedo che siete una famiglia unita anche con la mamma, anche nonostante la separazione. Sì. Cioè, è rimasta... I rapporti sono molto buoni, adesso ce lo conformerà la nostra padre, esatto. Ma sono buoni con la mamma, quindi ci vediamo anche tutti assieme, anche tutti insieme, molto sì. Spesso, insomma abbastanza spesso, e il che ci ha permesso appunto di, almeno dal mio punto di vista, di vivere una separazione come rimanendo pur sempre una famiglia e uniti. E anche se viaggiamo, perché comunque viaggiamo spesso... Si chiama famiglia per quello, famiglia, miglia e miglia. Esatto, viaggiamo, ma con la testa siamo lì. Sì, ci sono, insomma, le separazioni non sono mai belle, però noi siamo rimasti comunque famiglia. E pronti ad accogliere comunque anche altri componenti della famiglia che si è allargata. Sai, qui si dice sempre, mia figlia è piena di padri. Nella vita ha cercato tanti altri padri, io non sono geloso, ma sono goloso sia di lei che di questi padri. E io ho cercato tanti altri figli, figli nelle barche, figli in Kurdistan, figli in Libia, figli in carcere, figli, perché il tema di questa famosa proprietà che i genitori hanno, io dico sempre non ho avuto un figlio, è nato un figlio, e a me piace sempre dire che i figli non sono tutta la mia vita, sono tutta la loro vita, io non posso essere proprietario. È un tema molto sbagliato. Allora il possederli, io preferisco essere posseduto da un qualche cosa che mi diabolicamente mi sconvolge fantasia e immaginazione con la sua realtà, ma possedere, da dire loro sono miei, devono laurearsi, devono sposarmi, devono darmi dei figli, devono accudirmi, dovranno, ecco, queste sono leggi nelle quali io non credo. E l'altra cosa che dicevi non era che i genitori sono taxisti. Autostoppisti. Io ho sempre pensato che i figli sono degli autostoppisti. Noi li carichiamo, possiamo avere una macchina bella con l'aria condizionata, con i sedili in pelle, col tettuccio apribile, quello che vuoi, poi li portiamo fino a un certo punto. Poi loro scendono e vanno per la loro strada. Non è possibile, non è credibile che questa proprietà, come noi vogliamo di tutto, la nostra casa, i nostri figli. I figli di sangue sono soprattutto quelli che sono stati torturati, i figli di sangue sono anche le persone che incontri per la strada, i figli di sangue, c'è un sangue che diciamo ci può unire, ecco, e alle volte è un sangue che esonda e arriva anche attorno alle nostre case dove non avremmo mai detto che sarebbe arrivato. C'è una bella poesia di Tagore che dice: i nostri figli non sono nostri figli, sono frecce che noi scagliamo. Cioè noi siamo l'arco, li scagliamo e loro sono le frecce, li scagliamo nella vita e poi... Invece io vorrei essere una di quelle frecce tenuta per sempre appiccicata. Cioè io vorrei quei padri che dicono tu sei mia figlia, guai chi tocca mia figlia. Insomma, probabilmente lo dico perché ho avuto la fortuna di avere un babbo che invece non ha mai avuto la possessione nei miei confronti. Però l'abitazione esasperata, quando mia figlia aveva 2 anni, 1 anno e Leo non era ancora nato, portarla dappertutto, portarla fino alla notte ovunque, farla parlare, farla ridere, farla scherzare, farla giocare ed essere ossessivo compulsivo sul concetto proprio dell'essere e dell'esserci, quello c'è stato. Però non era una proprietà, era una golosità. Non era la gelosia, tant'è che adesso lei ha degli ideali di padre molto diversi dai miei, io li rispetto, li stimo, li conosco e non c'è nessuna forma di gelosia e aumentano sempre di più. Io come figli mi sono un po' trattenuto, ho quelli simbolici del mondo, non ho però dei figli materiali con cui esco, mi vado a trovare, forse 1 o 2, ma... Tant'è che io non vorrei nemmeno che i miei figli avessero dei figli, perché mi sentirei come nonno di tradire i miei figli, e questa sia da psicanalisi, ma non ci penso adesso. Però io sono molto orgogliosa del padre che ho avuto, mi sono divertita alla faccia. Anch'io. E mi sto divertendo ancora. Esatto. Soprattutto quando facciamo queste interviste. Che è la prima comune, è un battesimo dell'aere, è un battesimo del pensiero, è un battesimo della voce, è un battesimo delle facce, è un battesimo delle foto per noi. È vero, abbiamo sempre parlato poco tra noi con una persona che ci intervistava. Male, dovremmo farlo più spesso. Michele, facciamo quindi una seduta settimana. Facci più interviste, Michele. Michele, cosa facciamo? Cadenza settimanale per il momento? Lettino o seduti? Se è psicanalisi, 2 alla settimana. Facciamo 2 almeno. So se vi costa una botta, ragazzi. Tutte pubblicate, Repubblica. Questa è stata la prima terapia familiare che abbiamo fatto. Pensa che bello. Terapia in prima pagina. Sarebbe Michele, bellissimo. Pensa che incubo, Michele, dopo devi veramente. E dopo non sappiamo più chi è il padre, Michele o Alessandro, non lo so. Michele, per me ero già diventato. Io e vostro padre siamo coetanei, io sono nato il 1 novembre del 58, quindi io il 21 luglio del 58. Ho visto, però tu hai molti più capelli di me. Ma tu sai cosa, li hai che crescono all'interno. Michele, tu hai più figli? Tu hai più figli, io meno, ho meno figli, io ho più capelli, tu hai meno capelli, ma sappi, lo dico sempre, i capelli noi non li vediamo, ma possono essere all'interno. Quante cose noi non vediamo e stanno accadendo? E allora io credo che la crealtà, che è una parola che amo molto nella mia arte, crealtà non vuol dire abbandonare la realtà, ma creare anche un'altra realtà. È quella che per me tu sei cappellone dentro. Che cosa possiamo dire di quest'estate ancora? Che cosa... Quest'estate i miei figli viaggeranno molto come amano fare, soprattutto Leonardo è stato ed è ancora un uomo straniero nel senso, ma lo dice lui, racconta la tua viaggiabilità. Allora, io sono stato, tutto è iniziato con un Erasmus a Parigi, che è stato veramente il mio innamoramento nei confronti dell'estero in generale, Parigi nel particolare, e adesso, se il lavoro me lo permetterà, che sia un lavoro creativo o un lavoro giuridico, appunto più tecnico, ma mi piacerebbe andare a vivere fuori dall'Italia. Ma la sorella non glielo permetterà perché è tecnicamente o Londra possessiva. O Parigi. Esatto, ecco chi è che li mette i paletti, l'Alice. Leonardo ha due madri. Ho due madri, una Alice molto, e Renata. Una molto più permissiva e che lo lascia molto più libero, un'altra che invece potrebbe piantare una bella grana se va a vivere all'estero. Per l'Erasmus è stato così. Qual è il paletto che ha messo Alice? No, io, lui diceva, non vedo l'ora di andare a vivere all'estero e insomma, se sarà possibile andrò a vivere all'estero. E hai detto se il lavoro me lo permetterà. Ho detto no, il problema sarà che tua sorella non te lo permetterà. È stato straziante per Alice vedere 4 mesi Leonardo a Parigi. Veramente sei mesi di Erasmus. Ho dovuto, quando ho avuto la notizia dell'Erasmus, discutere non con mia madre che ha detto parti, esci di casa, vai, ma con mia sorella che ha detto tu non te ne vai di qui. Tu non hai capito, Parigi, tu potrai vedere Parigi, ma Parigi non vedrà te, sì. La vedi da uno schermo. Poi alla fine sono partito perché... Tra le mie lacrime, ma... Anche Alice è un genitore buono alla fine. Sì, Michele, qua al lavoro di psicanalisi c'è altro che 2 volte a settimana. Noi non amiamo la bontà, perché uno può essere buono a nulla. Noi amiamo la beltà è molto più importante della bontà. E la contiene. Però siete molto uniti, cioè in questo io vi ammiro molto. Troppo? Voi che ci disuniamo un po'? No, perché io soffro quando vedo magari i miei figli che non si parlano di loro a volte. Ecco, questo è un problema, nella mia famiglia ci sono stati problemi, come in tutte le famiglie, questo è l'ultimo dei nostri problemi, parlarsi, dirsi o farsi vedere, ma l'ultimo proprio, ecco. No, diciamo che io e Leonardo abbiamo avuto qualche momento, cioè per me la cosa più sofferente è discutere con mio fratello, i momenti di incomprensione con mio fratello sono proprio più duri. Però sono rari perché io sono il mediatore, mitigo, difficile litigare con me. Quando succede auguri a tutti, però è difficile. Litighiamo adesso se vuoi, facciamo una prova. Ok. Non prendiamo piano. Adesso voi li fate questi nipoti al padre? No! Non è in programma, almeno dal mio punto di vista non è in programma. Devo parlare con la mia fidanzata Alessia e bisogna vedere se... Anzi, sarei curioso di sapere da Alice se è in programma. È in programma? Grazie mille, Leonardo, che fa sapere cose più bollenti. Beh, io ho già risposto, ho detto che non c'è programma. Poi uno al momento non ho figli, però mi piacerebbe avere con me. Li vorrei... Oh. Cos'hai detto? Cos'hai detto? Al momento non hai figli, ma mi piacerebbe averne. Ha un sacco di padri, ma non ha figli, ecco. Non... Spero di essere in grado di essere madre. Alice è stata madre dal primo giorno, veramente. Madre, no, sorella, è stata... Però il tema è che io, non, a differenza della mia ex moglie, non reggerei l'impatto, non reggerei l'impatto perché per me, ma questo non vuole condizionarmi, no, mi adatterò, ma il concetto di pensare che c'è un bambino dei miei figli che io possa portare ai giardini, che possa portare fuori, che possa coccolare, che possa svegliare, che possa vestire o cambiare, mi fa davvero sentire traditore del, come dire, ma io, siete solo voi, ecco, qui c'è un vero tappo gorgiano che credo andrebbe un nodo, andrebbe slegato, ecco, sicuramente. A sto punto io non so se presenterei i miei figli a mio padre. Chissà se glieli faremo vedere. Lo terremo nascosto a papà. Ha portato una carrozzina a mano Leonardo di una sua amica un mese fa, gli è venuto verso di me in una strada di Bologna. Beh, ti devo dire, ne ho persi molti di capelli. Ma tu non vuoi questi bambini dei tuoi figli perché non ti vuoi sentire nonno o perché pensi che... Allora, no, perché per me significa tradire loro. Cioè, io vorrei, come dire, quei bambini lì, quel bambino lì o quei bambini lì chi sono, quali sono, se non ho tempo per accudirli, se non ho tempo per condividere con i miei figli, se non ho tempo di portarli a mangiare fuori o di farli fare dei viaggi, io mi dispero, perché non riesco a pensare come deve essere, che siano loro. Ecco, in questo senso... sento non una proprietà, ma il tempo, sono terrorizzato, la banca del tempo mi sta chiedendo di rientrare, perché io ho speso molto da un punto di vista di massa lavorativa, di colmo, di strati. Adesso pensare di non poter avere per tournée, per mostre, per incontri, del tempo da dedicare ai figli dei miei figli, mi crea una situazione di frustrazione impressionante, anche perché per me una forma d'arte sono i figli, non c'è niente da fare, non la vorrei perdere. Quindi ti senti... Allora, stabiliamo una cosa. Ma perché, perché dobbiamo parlare dei nipoti? Scusa Michele? Quando tu dici un mistero... No, no, tradire i miei figli. Tradire noi. Noi, i nipoti, i figli. Cioè lui... Di non poter portare noi a prendere il gelato, di non poter giocare con noi. Per me bambini, per me bambini neonati sono e saranno sempre stati loro. E saranno sempre loro. E torneremo neonati per farti felice. Un transfer, cioè. La vecchiaia, Michele, lo so che eravani lì, hanno detto gli scienziati che comincia da 75 anni in poi, quindi me li lascio questi 10, che forse non ci arrivo neanche a questi 10. Forse uno non invecchia perché muore prima, tutti hanno paura della vecchiaia, ma perché? Magari moriamo prima. Per star tranquilli, eh. La morte è un anti-age. La morte è un anti-age. È un anti-age, anti-invecchiamento. Come le creme. È una crema. Sta sentendo lui. Ma stai scherzando? È quella, è la cosa che è l'anticaduta dei capelli, è qualsiasi cosa, veramente. È l'anti-artrite, qualsiasi cosa. Infatti mi sono chiesto l'altro giorno, ma non sono stanco di vivere? Ma uno dice, sono stanco di vivere, non hai voglia di fare qualcos'altro? Ecco, qualcos'altro, non ho detto di morire solo. Perché noi viviamo? C'è una terza, quarta vita, noi dobbiamo usare anche quella, noi dobbiamo cambiare dimensione, lo dico negli spettacoli, lo dico nelle mie performance, cambiare dimensione, smettere di pensare che c'è solo la vita e la morte, ecco, ci sono altre, entrare nelle vite degli altri, c'è il tema dell'immedesimazione, c'è il tema della congiungivite, che è un tema che sto usando per la prima volta in questo periodo, che ci sarà nel mio spettacolo e in tante altre mie forme d'arte. Congiungivite non è l'infiammazione della congiuntivite, ma congiungivite, cioè unire tutte le possibili vite degli altri, ecco. Non si può fare altrimenti. Come si fa? Come si fa a pensare all'Emilia Romagna e ai morti dell'Emilia Romagna? E non a pensare ai morti del mare. Come si fa a non pensare alle prigioni italiane e alle prigioni libiche? Come si fa a non avere figli che adesso stanno attraversando il deserto e muoiono a 48 gradi al sole perché mandati via? Come si fa a non pensare che ho figli in galera da Zdaki o figli morti come Regeni, Aldrovandi, Cucchi? Come si fa a non congiungere queste vite? Ecco, non, per me è impossibile. Ecco, su questo faccio parlare loro, poi dico una cosa io. Andate ragazzi, vai. Questo è quello che ci dicono tutti da quando io ho ricordi di udito, com'è avere un padre così, un padre impegnativo e è così anche a casa, ma tuo padre è un artista, è così da quando io ho ricordi di udito, per le domande che mi vengono fatte. E impegnativo in modo bello, buono e vero, cioè in tutti i sensi. Impegnativo, anche nel più bel valore che può avere la parola impegnativo, quindi qualcosa che ha proprio un valore, però tosto, un babbo tosto ci ha insegnato tante cose belle e abbiamo veleggiato, raccontato e insegnato cose belle, abbiamo veleggiato sul mare quando eravamo piccoli e ci ha insegnato a ramare il mare, ci ha insegnato a ramare le altre persone, però sì, un papà impegnativo. Leo? Per me è impegnativo in modo divertente e questa è secondo me la cosa più rappresentativa di mio padre. Il fatto che da quando sono piccolo io non ho fatto altro che divertirmi fino adesso. Non so se da adesso in poi mi continuerò a divertire, ma ora mi sto divertendo. Vedi Michele? Siccome lo dicono anche a me, a loro lo dicono con un senso di poveretti voi, no. A me lo dicono con un senso di accusa, con un senso di pesantezza. Sai quali sono i padri impegnativi per me? Sono i chirurghi, gli avvocati che escono la mattina alle 8, tornano la sera alle 9 da quando il bambino è nato. Sai qual è il padre impegnativo? Quelli sono è il padre che è altrove, è il padre che non ha tempo. Quelli sono i padri impegnativi. I padri impegnativi sono i padri violenti, sono i padri ossessivi compulsivi, sono i padri autoreferenziali, sono i padri... Certo, forse la parola è impegnato, ma impegnato non da dire non ho tempo e modo di godermi e di bere le vite altrui, ma impegnato nel senso che è concentrato su molti fronti, ecco, questo sì, questo probabilmente, cioè un padre che parla di morte quotidianamente da quando i bambini sono nati può essere impegnativo. Mi raccontano che in Finlandia però le favole raccontano dove i bambini di 2 anni raccontano che viene la morte, passa di fianco a te, ti dà una carezza, esce dalla tua casa e va nella casa di un altro. Siamo noi poi che abbiamo un'idea della morte, un'idea dell'altrove, un'idea del dolore, un'idea della malattia molto monotematica, molto ossessiva, compulsiva. Ma poterla trasformare, traslare, ecco, io mi sento un traduttore, ecco, non sapendo una lingua in vita mia, io non so una parola di arabo, tutte le altre sì, però. Posso confermare un altro aggettivo per mio padre, è un padre vasto, vero. Credo che tu te ne sia accorto, c'è tanto lì dentro, E un po' siamo usciti anche noi da lì, adesso è un po' brutto da dire, però. Oddio Leonardo! Siamo parte della vastità di Alessandro Bergonzoni, oh! Posso chiedere? Siamo parte della sua vastità. Aspetta che parla, povero Michele. Riunione Zoom terminata. Avevi il telefono? Ah sì, sì sì, datemi i telefoni. Grazie. Bravo. Siete bravi, ragazzi. Sei bravo. No. C'è una proprietà di linguaggio che me la sogno io. Sembra abbastanza divertente, no? Scusa, molto. Proprietà di linguaggio? Sei bravissimo a parlare. Io sembro una... Dizione, vuoi dire? No, riesci a parlare bene, a spiegare le cose bene. Non 9 so... minuti. Cosa, mancano? No, 9 minuti e se vogliamo, adesso tanto lui non deve più guardarvi, direi che lo possiamo chiamare. Sì, esatto. Tu come sei altoparlante? Forte il tuo? La batteria ce l'ho, non come... Ma che l'ho io la rinnovo? C'ho il computer. Però aspetta, perché sennò non riesci a... No, perché deve essere telefono. No, facciamo a te lì. Il computer che sente meglio. Ah sì, vai. Cosa faccio? Allora fai Zoom, esatto, nuova riunione. Via link tramite mail, copia. Io non ho Zoom. Non hai Zoom, allora basta. E se non hai Zoom, fai la chiamata. Ma io c'ho un'altra cosa che uso. Però. Faccio una chiamata con l'altoparlante. Beh, sì, ma dai, certo. Tanto vedersi a vista. Come si diceva, l'autoparlante. Io da bimbo la sento. Sì, mi dispiace. No, vuoi te aprire quella finestra? Un po' di aria circola. Ma va, va. Michele, quante volte te l'ho detto? Rispondi al telefono. Ecco, invece sto pensando. Dio, Madonna. Non fa caldo. No, caldo. No, si sta da Dio adesso. Lo sento io. Io sto da Dio. Ho proprio pensato, sto proprio finalmente sto bene. Tu hai l'aria da te. Dov'è Michele? Michele. Where is Michele? Quindi magari non si è accorto e sta continuando a farci domande. Dice, oh, finalmente sì, non parlano. Finalmente esatto. Sì. Esatto. Finalmente taccio. Perché non mi rispondi? Il microfono di Rick. Le didascalie che hai mandato le scriverà? Dovrebbe. Sua discrezione, adesso glielo chiediamo. Perché è l'unico modo in cui nomino un po'. Michele, abbiamo esaurito il tempo, abbiamo 9 minuti, ma facciamo così. Ti metto in viva voce, tanti ragazzi l'hai visti, poi dopo ti farò delle foto false e ti spedirò un portfolio infinito. Va bene? Arrivo, ti metto in viva voce, rimani lì. Eccoti. Eccoci Michele di nuovo, ciao. Edri, ciao. Ciao, ma senti, per me può anche andare bene, abbiamo detto tante cose. Bene. Però se volete aggiungere qualcosa voi sono qua. Tu hai sentito l'ultima cosa che stavo dicendo, che noi siamo parte della vastità di nostro padre, sì, quella avevi sentita, non era saltata. Sì. Sto pensando cos'altro potremmo dire. Non saprei, hai letto le nostre descrizioni? Ecco, questa te la dico, mi sento a provare a fare stand up comedy, io mi sento come il figlio di Federer che prova a giocare a padel, quindi non un granché, ma sempre con possibilità di miglioramento, ma è un altro sport, e per questo mi sento quasi autorizzato a farlo, nel senso che sarebbe difficile provare a fare teatro con un padre così. Ma lui, come dicevamo prima, non ci ha mai precluso niente, quindi se mai vorrò o mi sentirò di provare, so che avrei il suo appoggio sia come padre, sia come critico, sia come pubblico, come se lui fosse solo mio padre, non un attore o artista teatrale. Loro, scusami Michele, sono fogli d'arte. Fogli d'arte vuol dire che ci possono scrivere e disegnare quello che vogliono, ma quel foglio è loro, non c'è niente da fare. Forse l'hanno trovato in casa, ma il foglio è loro. Sopra non c'è scritto niente che non scrivano loro. Ecco, mia figlia nella vita, negli amori, nei viaggi, nei cambiamenti esistenziali, che ne ha fatto tanti, e mio figlio, se vorrà e come vorrà, nella scrittura, nel movimento, nel corpo, in qualsiasi cosa, ma sono fogli d'arte, ecco, non figli d'arte è una gara dura. Mio padre mi obbligò a seguire la sua azienda, mio padre mi disse devi diventare ingegnere, lui non lo era soltanto, ha fatto l'istituto tecnico e voleva che io diventassi ciò che lui non ha potuto diventare, sono stato il primo laureato di tutta la famiglia, una famiglia anche benestante alla fine, ma partita anche la sua e i suoi genitori, una famiglia molto complessa, difficile, non ricca e non benestante. Allora vedeva l'obbligo di dire ma come, tu lasci un'azienda metalmeccanica per andare via? Lui si è sentito tradito e lui mi ha obbligato, io me ne sono andato di casa, c'è stata una lotta molto forte, poi ha capito che io facevo come lui, ho messo in piedi una mia impresa hardware quando avevo della roba già fatta, e lui che aveva un padre che aveva un deposito di biciclette e gli aveva dato quel lavoro, si è messo a prendere un tornio, l'ha messo in una cantina e ha cominciato a parlare di meccanica. Mio padre ha detto Quindi vedi, ci sono delle cose, ma la lotta lì c'è stata. Qui se mia figlia domani dice che vuole fare la ballerina al palo in un locale di Miami e mio figlio vuole andare a fare il pastore in Sardegna perché la natura è quella, l'arte fa schifo e perché il mondo è quello che è, io non dirò mai ma come, ma perché, tu, noi, la vita, cosa ti ho raccontato? Zero proprio, zero stecchetto. Ecco, ci ha dato tanti, come diceva, tanti fogli, quasi un quaderno, e quaderno era il nome che ho rischiato di avere io, infatti se non era per mia madre io mi sarei chiamato Quaderno e mia sorella Matita. Questa è una storia vera, è una storia vera. Invece si chiamano di secondo nome Ixino, perché non sapevamo se era maschio o una femmina, e la Alice Delfina, Olimpia. Geronimo. Qual è meglio? Sì. Ma hai la possibilità di capire il valore. Quaderno e matita vuole dire che la matita ha una mina che non scoppia mai, ma disegna e crea, e il quaderno è un foglio bianco da cui puoi migrare da destra e a sinistra. Allora loro sono il simbolo di questa migrazione da destra a sinistra fino a perdersi, perché i figli possono anche perdersi, l'importante è che non perdano il padre, inteso nel senso non nella vita, lo perderanno sicuramente, ma non perdono il padre che è il loro e per loro. Non credo nei rapporti di sangue. Bianco. È uno spazio bianco dove con una matita tu migri come fanno i migranti da destra a sinistra, da sinistra a destra, ti puoi perdere nel mezzo, ma vai sempre da una parte all'altra, è un viaggio, un percorso, non sai cosa ci scrivi in mezzo, c'è pericolo, c'è gioia, c'è salvezza. Questo è fondamentale. La matita è legno, quindi fa parte della natura, però ha una mina che è l'antiviolenza per eccellenza. Se si scrivesse e non si facesse guerra, noi saremmo un popolo di artisti, di scrittori. Ma Alice, se tu come assistente sociale ti imbatti in un padre che ha chiamato i figli quando è una matita, cosa fai? A fare dei minori, fai togliere? Assolutamente sì. Cioè, proprio penso che sia violenza psicologica e tutta una serie di... Cioè, credo che non ci siano più quei fattori di protezione che dovrebbero esserci in una famiglia, ma anzi, scusami, mi correggo, i fattori di rischio superano i fattori di protezione, per usare un linguaggio tecnico. Sì, ma no, ma farli proprio andare lontani. Però mia figlia è una calamita, vuol dire che attrae le calamità per salvare e curare. Mia figlia è una farmacista esistenziale, è una farmacista, è una curatrice, salvatrice, è un medico trasversale. Se avesse fatto medicina, ma lei non sa studiare come suo padre, a differenza di Leonardo e della mia ex moglie, che di studio se ne intendono alquanto. Leonardo sceglie e percorre una vita che è assolutamente aperta a 360 gradi, ecco. Devo dire, in questo senso qua, è veramente una delicatezza feroce. Tornando alla matita, il tratto di vita è quello che ci hanno fatto vivere per ora i nostri genitori. Bene, bene. Posso chiedervi fuori intervista, ma per una curiosità mia personale? Sì. Quanti anni avevate quando i tuoi vostri genitori si sono separati? In realtà non lo sapremo mai con esattezza, però e qua è scattata una risata generale compresa di Riccardo, visto che siamo fuori intervista, con quelle domande che non si sa. Però credo, quando papà è andato via, quando è andato via di casa papà, però erano già separati in casa da un po', quando papà è andato via di casa io avevo 18, 17, 18 e mio fratello 13, 14. Vabbè, sì. No, scusa, sono stato indelicato. No, guarda che noi siamo molto tranquilli. Perché ve l'ho chiesto, perché io mi sono separato, non tanto tempo. Ah. E i miei figli vanno dall'età di Alice a una che ha 14 anni. Ok, quella di 14 penso che sia un po' nella fase di rabbia, poi le passa, sai. Ma perché deve essere arrabbiata col padre? Magari può essere arrabbiata con la madre. Non ho detto di rabbia con lui, di rabbia in generale. Ah, scusa, avevo capito. Cioè, nel senso, io sono molto tranquilla adesso, però per dirti, Michele, cioè, passerà, cioè. Hai detto che è già passato, Luigi. Persona di una rigidità, possesso, l'ennesima molto inaffettiva, molto rigida, urca, molto fredda. Non è proprio più da piccola che viveva per me e diceva qua è tutto, papà. Forse si è sentita abbandonata. Tradita, si è sentita tradita. Ma poi le passa, speriamo. No, te lo però, e vedi, il privilegio che io ho sempre avuto nella vita con i miei genitori, con la mia attuale compagna, con Riccardo, con Claudio Calabrò, persone che mi hanno insegnato sicuramente. Ho sempre avuto dei privilegi nella vita, anche una sorella, da bambino mi ha aiutato molto quando ero piccolo, e ho sempre avuto dei privilegi, privilegio anche la mia ex moglie, con la quale noi non abbiamo litigato mai. Quindi loro si domandavano realmente, ma perché vi separate? Allora, andare a spiegare che un amore finisce e che non ti puoi permettere di far finta che ci vivi lo stesso e magari in futuro ti fai anche delle storie e dici tanto sto insieme per il discorso riguardante la famiglia. Io non sarei mai stato capace, credo nemmeno mia moglie. Però veramente, Michele, non ti preoccupare perché... A lei che è più piccola adesso, cioè credo che debba vivere questa fase per poi attraversarla e passarla, perché altrimenti, scusami, te lo dico proprio con affetto, dopo poi se gli rimane quando è più grande è peggio. E dopo va a minare, a contaminare le sue relazioni future e la sua vita. Se invece adesso lei attraversa sta roba, che purtroppo per te non sarà facile, dopo lei si mette a posto e avrà una vita tranquilla, perché comunque tu non l'hai mai abbandonata e lei riscoprirà di avere un padre staccato anche da sua mamma. Hai bisogno di un aiuto, Alice? Ti lascio il numero di mia figlia se vuoi. Va bene, volentieri. Guarda, no. Ah, siamo qua. Dai, veramente, a parte gli scherzi, se vuoi fare due chiacchiere e bere una birra, io ci sono. A me la differenza la fece... Tu stai a Bologna? Sì, sono a Bologna. Sì, sì. E mi mandi il tuo numero? Certo, te lo faccio mandare da Riccardo. Assolutamente. No, ma davvero, a parte gli scherzi, io nel senso... Con grande piacere. Ecco, vedi... Avessi un po' della rigidità e della freddezza di tua moglie, io nella vita. No, ma mia moglie purtroppo, guarda, lo dico con affetto. No, poveretta, se è così rigida e fredda, deve aver sofferto. Io non dico che è un cattolicesimo, è la parodia del cattolicesimo. Sì, sì. Conta solo l'immagine. Sì, è proprio una facciata. Urca, queste robe violente, Michele, molto violente. Comunque dai, quando sei a Bologna dimmelo, che io credo che quella sia una madre impegnativa, quello sì. Molto, guarda, io mi sono separato perché a un certo punto i miei figli più grandi me l'hanno quasi chiesto, me l'hanno quasi supplicato. Ho detto, papà, tu non devi passare la vita di fianco così, Sì, sì. No, ma guarda che vedrai che anche tua figlia più piccola poi lo comprenderà, ci vorrà solo un pochino più di tempo, ma anche per una questione anagrafica e del fatto che è femmina, e per le figlie femmine a quell'età lì c'è il papà eroe che deve scendere dal piedistallo per forza, quindi cioè meglio che ci scenda a 14 anni, dopo poi ritornate in un piedistallo che rimane per tutta la vita, quindi dopo passa, Michele, giuro. Senti, ti volevo chiedere solo una cosa per ciò che riguarda la mia didascalia, pensi di pubblicarla? Perché ci sono due cose che per me erano importanti. No, ecco. Sì, perché in quelle pagine lì ci sono le biografie degli intervistati. Perfetto. Sette dei colonnini, per cui quelle che mi ha mandato, okay. Riccardo, se per voi vanno bene, sì. Le metto così. Perfetto, grazie. Perfetto. Mille. Era per sapere, perché c'erano due cose per me importanti che sono scritte lì, quindi ti ringrazio. Dimmi, caro. Vedete i tuoi spettacoli e l'impressione che anche tu da bambino come me ti sei innamorato di Walter Chiari. Ah sì, io mi sono innamorato di Walter Chiari, mi sono innamorato di Jerry Lewis, mi sono innamorato dei fratelli Marx, mi sono innamorato... perché Walter Chiari è più di Gaber o di tanti altri, per me è un punto di riferimento, di genialità, di surrealtà. Lui però era una persona che era un fine dicitore ed era una persona che sapeva fare la televisione, che sapeva fare il cinema un po' meno, ma era veramente un uomo più di televisione che di teatro, e soprattutto era una persona più di coinvolgimento pubblico live. Io mi sento più autore, scrittore, un po' poeta, un po' artista. Non avrei quella verve barzellettiera, capace come soltanto lui è stato capace. L'incalzare in certi monologhi tuoi quando tu dici che non sai pronunciare il nome di un tizio, lo cambi mille volte, mi sembra lui nel sarchiappone. Certo, certo. Ma vedi Michele, io non penso che nessun autore inventi niente. Calvino, io, scusa se faccio dei paragoni, Joyce, noi siamo dei percettori, delle antenne, tutta questa roba è già scritta, questa roba esiste già. Il privilegio delle persone, degli artisti, è quello di tirare sull'antenna e captare questa scrittura, captare queste doti, che non sono di proprietà mie. I miei testi io non li scrivo io, non sono scritti da me, sono percepiti da me, tradotti e poi dati al pubblico. Io non sono l'autore, sono l'autorizzato, io non sono lo scrittore, sono lo scritturato. Ed è già un privilegio enorme. L'importante è tenere aperto l'antenna. L'antenna capta di tutto. L'esempio è che Calvino non c'è più, la sua scrittura c'è ancora, ci sarà sempre. Bene. Facciamone una al mese, Michele, una al mese. Ma guarda, dai, io sono a Bologna, voi ricordo il mio numero, io... Ah, vivi a Bologna tu? Vivi a metà Bologna e metà Durazzo. Bologna, ho due locali. Aspetta, devo fare due foto con la vostra immagine lì. E allora ci sentiremo un giorno, ci beviamo un caffè e ti invitiamo anche alle prossime cose nuove, perché stiamo preparando tra performance artistiche, festival e spettacolo nuovo con Riccardo, stiamo preparando delle roba che mi farebbe piacere condividere con te. Io non ho mai obbligato i miei figli a venire a teatro, se vogliono venire ci vengono, se non vogliono venire ci andiamo con molto piacere. Michele, ti faccio girare il mio numero da Riccardo, usalo quando vuoi. Fake, che mi è di sicuro, davvero bene, grazie Michele, sono Rick, sono il quarto. È stato un piacere anche per noi. Eccolo qua, ascolta Michele, io allora adesso faccio le ultime foto false, ne ho fatte un sacco, entro domani, anche perché me ne faccio spedire un po' dai ragazzi, quelli che gli piacciono a loro. Ti spedisco poi qualsiasi cosa, visto che siamo un pochino lenti nell'organizzazione, ma però fattivi quando lo facciamo, insomma. Va bene, no, di pace, va bene, un bacio, stammi bene, ciao Michele, ciao. Adesso io vi faccio. Grazie ragazzi. Beh, bravissimi, Vi divertite? Sì, molto. Allora, la prima intervista l'abbiamo fatta assieme, le altre le farete tutte per il vostro. Adesso lo facciamo con te e con lui, perché vi voglio nello schermo, perché mi serve una foto di lui che guarda lo schermo. Quindi vi richiamo in un secondo. Vuoi chiamarci nel telefono? Adesso può. No, non c'è problema. Dovete mettere l'audio, perché sennò non apparite nel casino. Sì, no. Comunque, no, io lo so perché. Certo. Zoom con tutte le mie zone. Certo. Anche perché ti sarai fatto due maroni con le zore. Ah, sì, però. Beh, insomma, no, non è semplicissimo. Anche la romagnola, la domanda è attaccata. Sandro, ho bisogno di te adesso un attimo. Papà, hai detto per una cosa. Hai bisogno di me? Sì, per fare una foto. Di Larry Venturi ha bisogno di... Lo so, ma aspetterà di Larry Venturi un secondo, non è per cattiveria. Secondo te com'è venuto? Benissimo. Troppa roba, troppa bontà. No, è bellissimo. Loro prenderanno l'avvento loro. Devono, perché sennò sarebbe un'intervista. Mi piace da morire, non c'è... Vi richiamo sull'email. Perché ci richiami sull'email? Perché ho bisogno della foto. Del fake. Anche papà si deve ricordare. Eh? Anche papà si deve ricordare. Sì, no, con questo. Sì, sì, ecco, te t'ho già invitato. Attacca il microfono. Ok. Fai uno alla volta. Lui registrava secondo te? Sì, sì, sì, sì. No, okay. No, beh, c'è della gente che sono delle macchine. Esatto, no? Tu sei proprio veloce. Io l'ho registrato.